si verificò a quell'epoca un fenomeno che merita d'essere menzionato solo perché ricorre in tutti i periodi cruciali della storia. Nello stesso momento in cui io scrivevo a Gilbert, il signor di Guermantes, appena rincasato dal ballo in maschera, con ancora il suo elmo in testa, stava riflettendo che il giorno dopo avrebbe dovuto mettersi ufficialmente in lutto e che quindi gli conveniva anticipare di 8 giorni la partenza per le cure termali. Quando, di lì a 3 settimane, sto percorrendo gli eventi giacché ho appena finito di scrivere a Gilbert, fece ritorno, gli amici che lo avevano visto, superata l'iniziale indifferenza, trasformarsi in un acceso anti-dreyfusista, ammutolirono per lo stupore sentendolo sentenziare come se la cura non si fosse limitata ad agire sulla vescica. Ebbene, si farà la revisione e lui sarà assolto. Non si può condannare un uomo contro il quale non esistono prove. Avete visto che deficiente? Quel Froberville? Un ufficiale che prepara i francesi al macello per dire la guerra. Strani tempi. Il fatto è che alle acque il duca di Guermantes aveva conosciuto 3 incantevoli dame, una principessa italiana e le sue 2 cognate. Sentendole scambiare le loro impressioni sui libri che leggevano, su una commedia in scena al casinò, il duca s'era subito reso conto d'avere a che fare con donne di levatura intellettuale superiore, rispetto alle quali non si riteneva, come era solito dire, all'altezza. Per questo lo aveva tanto più lusingato da parte della principessa un invito al bridge. Ma quando, appena arrivato, nel fervore del suo antidreyfusismo, senza incrinature, le aveva detto «Ebbene, della famosa revisione non se ne parla più», la risposta della principessa e delle sue cognate lo aveva lasciato di stucco. «Ormai ci siamo. Non si può tenere in prigione un innocente». «Eh? Aveva balbettato il duca, come se avesse scoperto quale buffo nomignolo s'usava in quella casa per ridicolizzare una persona che gli fosse parsa sino un attimo prima intelligente. Ma in capo a qualche giorno, così come per viltà e spirito d'imitazione si grida «Ehi, Jujotte!» senza sapere perché, a un grande artista che si sente interpellare in quel modo, il duca, in quella casa, sebbene ancora imbarazzato dalla nuova usanza, era già arrivato a dire «In effetti, se non ci sono elementi contro di lui...» Le 3 incantevoli dame lo trovavano troppo circospetto e lo strapazzavano un po'. Ma via, nessuna persona intelligente ha mai pensato che ce ne fossero. Ogni volta che emergeva qualche circostanza schiacciante a carico di Dreyfus, il duca, convinto che questa avrebbe provocato la conversione delle 3 incantevoli dame, correva ad annunciargliela. Ma loro ridevano a gola spiegata e non trovavano la minima difficoltà a dimostrargli, con grande finezza dialettica, che l'argomento era inefficace e assolutamente ridicolo. Il duca ritornò a Parigi dreyfusista sfegatato. E noi non metteremo certo in dubbio che le 3 incantevoli dame fossero, nella fattispecie, messaggere di verità. Ma sarà il caso di notare come ogni 10 anni capiti che una coppia intelligente o una sola donna affascinante comincia a frequentare un uomo da noi lasciato in possesso di una convinzione autentica e nel giro di qualche mese lo converta a opinioni opposte. E ci sono anche molte nazioni che, su un altro piano, si comportano come quell'uomo sincero. Molte nazioni che abbiamo lasciate piene d'odio per un determinato popolo e che, 6 mesi dopo, hanno già mutato sentimenti e rovesciato le loro alleanze. Per qualche tempo non vidi più Albertine, ma continuai, in mancanza di Madame de Guermantes, che non parlava più alla mia immaginazione, a vedere altre fate nelle rispettive dimore, inseparabili dalle loro persone come la valva di madreperla o smalto o la torretta scanalata della conchiglia dal mollusco che la plasmate e vi si rifugia. Non avrei saputo classificare queste dame, poiché la difficoltà del problema consisteva nel suo essere tanto insignificante che è impossibile, non dico da risolvere, ma anche soltanto da enunciare. Prima della dama bisognava abbordare il fiabesco palazzo. Ora, Una riceveva sempre nei mesi estivi, dopo colazione. Ancora per via, era stato necessario far abbassare la capote della vettura, tanto forte picchiava il sole, il cui ricordo, senza che me ne rendessi conto, sarebbe entrato a far parte dell'impressione complessiva. Ero convinto d'andare semplicemente in Cours-la-Reine. In realtà, prima di arrivare a quella riunione che un uomo pratico forse non avrebbe presa sul serio, io provavo, come in un viaggio attraverso l'Italia, uno stordimento, delle delizie da cui, nella mia memoria, il palazzo non si sarebbe più separato. Inoltre, a difesa dal calore della stagione e dell'ora, la dama aveva ermeticamente chiuso le persiane dei vasti salotti rettangolari a pian terreno in cui riceveva. Faticavo dapprima a riconoscere la padrona di casa e i suoi visitatori, persino la duchessa di Gourmand, che con la sua voce rauca mi invitava a sedermi accanto a lei in una poltrona di Beauvais raffigurante il ratto d'Europa. Poi distinguevo sulle pareti i grandi arazzi del Settecento, configurazioni di vascelli dagli alberi fioriti di Malvarose, al di sotto dei quali mi sembrava d'essere non già in riva alla Senna, ma in riva al fiume Oceano, nel palazzo di Nettuno, dove la duchessa di Gourmand si trasfigurava in una sorta di divinità marina. Non finirei più se mi mettessi a enumerare tutti i salotti diversi da quello. L'esempio addotto è sufficiente a illustrare come io coinvolgessi nei miei giudizi mondani impressioni poetiche di cui mi dimenticavo al momento di tirare le somme, di modo che, nel calcolare i meriti di un salotto, i conti non mi tornavano mai. Certo, oltre a questi c'erano ben altri motivi che mi inducevano in errore, ma non ho più il tempo, prima di partire per Barbecque, dove per mia disgrazia farò un secondo soggiorno che sarà anche l'ultimo, di intraprendere descrizioni dell'alta società che troveranno spazio molto più avanti. Diciamo solo che a una prima falsa ragione, la mia vita è relativamente frivola tale da far supporre una passione mondana, della mia lettera a Gilbert e del ritorno agli Swann che essa sembrava preannunciare, Odette avrebbe potuto aggiungerne un'altra, non meno inesatta. Mi sono limitato finora a immaginare i vari aspetti che la società assume per una stessa persona, presupponendo che la società non cambi. Se una certa signora che non conosceva nessuno si mette a frequentare tutti, o una certa altra che aveva una posizione eminente viene lasciata in disparte, si è tentati di vedere in ciò unicamente uno di quegli alti e bassi affatto personali che ogni tanto provocano in uno stesso ambiente, in seguito a speculazioni di borsa, un clamoroso dissesto o un arricchimento insperato. Ora, non è soltanto così. In una certa misura, le manifestazioni mondane, per quanto inferiori ai movimenti artistici, alle crisi politiche, all'evoluzione che orienta il gusto del pubblico verso il teatro di idee, poi verso la pittura impressionista, poi verso la musica tedesca e complicata, poi verso la musica russa e semplice, oppure verso gli ideali sociali, gli ideali di giustizia, la reazione religiosa, i soprassalti di patriottismo, ne costituiscono tuttavia il riflesso lontano, incrinato, incerto, offuscato, cangiante. Di conseguenza, nemmeno i salotti possono essere dipinti in quell'immobilità statica che ha potuto giovare sin qui allo studio dei caratteri, i quali dovranno essere anch'essi, per così dire, trascinati in una sorta di movimento storico. Il gusto del nuovo, che porta gli uomini di mondo più o meno sinceramente avidi di informarsi sull'evoluzione intellettuale, a frequentare gli ambienti in cui sia loro possibile seguirla, fa sì che essi preferiscano di solito qualche padrona di casa fino allora inedita, capace di rappresentare in tutta la loro freschezza le speranze d'una mentalità superiore, così vizze e sfiorite nelle donne che esercitano da lungo tempo il potere mondano, delle quali conoscono il meglio e il peggio e che non stimolano più la loro immaginazione. È così che ogni epoca si personifica in nuove donne, in un nuovo gruppo di donne, le quali, strettamente legate a ciò che stuzzica le curiosità più recenti, danno l'impressione di comparire solo in quel momento, col loro modo di vestire, come una specie sconosciuta nata dall'ultimo diluvio, beltà irresistibili d'ogni nuovo consolato, d'ogni nuovo direttorio. Ma molto spesso le nuove padrone di casa sono semplicemente, come certi uomini politici al loro primo ministero, ma che da 40 anni bussavano a tutte le porte senza riuscire a farsene aprire, delle donne che, ignote al gran mondo, ne avevano tuttavia attirato da tempo, in mancanza di meglio, alcuni rari intimi. Certo, non è sempre questo il caso. E quando, con la prodigiosa fioritura dei balletti russi che rivelò a ritmo serrato Bakst, Nijinsky, Benoit e il genio di Stravinsky, comparve la principessa Yurbeletiev, giovane madrina di tutti quei grandi uomini nuovi, inalberando sulla testa un'immensa, tremante aigrette sconosciuta alle parigine che cercarono tutte di imitarla, si poté credere che quella meravigliosa creatura l'avessero portata nei loro innumerevoli bagagli, come il più prezioso dei tesori, gli stessi danzatori russi. Ma quando poi, in occasione dei loro spettacoli, vedremo invariabilmente assisa al suo fianco, nel suo palco di proscenio, simile a un'autentica fata, negletta sino a quel giorno dall'aristocrazia, Madame Verdurin, saremo in grado di rispondere alle persone di mondo, dispostissime a crederla sbarcata di fresco con la troupe di Diaghilev, che quella signora era già esistita in epoche diverse, subendo varie metamorfosi da cui quest'ultima differiva solo per il fatto che era la prima a recare finalmente, ormai sicuro e ad andatura sempre più rapida, il successo così lungamente e vanamente atteso dalla padrona. Quanto a Madame Swann, è vero che la novità di cui era portatrice non aveva lo stesso carattere collettivo. Il suo salotto si era cristallizzato intorno a un uomo, un moribondo, che era passato quasi all'improvviso, nel momento in cui il suo talento si spegneva, dall'oscurità alla gloria. L'infatuazione per Bergot, per i suoi libri, era smisurata. Egli passava intere giornate in vetrina da Madame Swann, che sussurrava a un uomo influente: «Gli parlerò io, vi farà un articolo». Bergot, dal canto suo, era in grado di farlo e anche di scrivere un breve testo teatrale per Madame Swann. Ulteriormente approssimatosi alla morte, stava un po' meno male di quando veniva a prendere notizie della nonna. Violenti dolori fisici gli avevano imposto un regime. La malattia è il più ascoltato dei medici. Alla bontà, alla scienza, ci si limita a promettere. Alla sofferenza si obbedisce. Certo, il piccolo clan dei Verdurin suscitava adesso un interesse ben più vivo che non il salotto lievemente nazionalista, più accentuatamente letterario e soprattutto bergottiano, di Madame Swann. Il piccolo clan si presentava infatti come il centro attivo d'una lunga crisi politica giunta all'apice dell'intensità, il dreyfusismo. Ma le persone di mondo erano per la maggior parte talmente antirevisioniste che un salotto dreyfusista sembrava qualcosa d'altrettanto impossibile quanto a suo tempo un salotto comunardo. La principessa di Caprarola, che aveva conosciuto Madame Verdurin in occasione di una grande mostra da lei organizzata, era stata, è vero, a farle una lunga visita nella speranza di dirottare qualche elemento interessante del piccolo clan per aggregarlo al suo proprio salotto. Una visita nel corso della quale la principessa, imitando in piccolo la duchessa di Gaumont, aveva controbattuto le idee correnti e decretato la stupidità delle persone del suo mondo, cosa per cui Madame Verdurin l'aveva giudicata estremamente coraggiosa. Più tardi, però, alle corse di Balbec, la principessa non lo era stata abbastanza da azzardare, sotto il fuoco degli sguardi delle dame nazionaliste, un saluto all'indirizzo di Madame Verdurin. A Madame Swann, invece, andava la gratitudine degli anti-dreyfusisti per il suo atteggiamento da ben pensante, che per lei, moglie di un ebreo, era un doppio titolo di merito. Ciononostante, chi non era mai stato a casa sua si figurava che ricevesse solo qualche oscuro israelita e dei discepoli di Bergot. La società relega donne ben altrimenti qualificate all'ultimo gradino della sua scala di valori a causa delle loro origini, o perché non amano i pranzi al ristorante e i ricevimenti, dove non le si vede mai e si suppone erroneamente che ciò dipenda dal fatto che nessuno le abbia invitate, o perché non parlano mai delle loro amicizie mondane, ma soltanto di letteratura ed arte, o perché quelli che le frequentano lo fanno di nascosto, oppure sono loro stesse, per non peccare di scortesia con altri, a tenere nascosto che li ricevono, insomma, per mille ragioni che concorrono a fare dell'uno o dell'altra, agli occhi di certuni, la donna che nessuno riceve. Era questo il caso di Odette. Madame de Pinois, andata a farle visita per sollecitare un versamento a favore della patrie française, come se si recasse a casa della sua merciaia e convinta di trovarci facce non tanto disprezzate quanto sconosciute, rimase impietrita quando la porta si spalancò, anziché sul salotto che aveva immaginato, su una sala magica, dove, come per un cambiamento a vista in una féerie, riconobbe in una serie di splendide comparse, semisdraiate sui divani, sedute sulle poltrone, in evidente intimità con la padrona di casa che chiamavano per nome, quelle altezze, quelle duchesse che lei, la principessa de Pinois, penava tanto ad attirare in casa sua e alle quali in quel momento, sotto gli sguardi benevoli di Odette, il marchese di Lo, il conte Louis de Turenne, il principe borghese, il duca d'Estrée, facevano da vivandieri e da coppieri, servendole di aranciata e pasticcini.